9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno di 8 settembre è sempre una data che evoca la storia italiana, l'8 settembre del regime, per così dire, però in realtà è la natività di Maria. Ma su questo 8 settembre evocativo voglio giocare un po' sul tema della domanda che pongo a voi ascoltatori, pregandovi di chiamare, numerosi come in questi giorni, da che c'è la manovra, da settimane il dibattito è incandescente, moltissime telefonate, e io vi ringrazio. Il numero verde è 800 24 00 24. Con la domanda è semplice: bisogna sperare nei mercati, anche se significa tifare contro l'Italia? Bisogna sperare nei nuovi strappi dello spread BTP Bund oltre quota 400 e verso quota 500, perché siano loro a dare quella spinta a cui siamo arrivati vicinissimi nei giorni scorsi di fronte all'ennesima correzione della manovra, quella spinta perché anche l'Italia arrivi a quella che chiamiamo la soluzione spagnola, cioè Zapatero che molla la presa e automaticamente la fiducia nei confronti del suo paese e della possibilità di trovare migliori condizioni per dare risposte adeguate ai mercati aumenta, tant'è che il rischio incorporato nei titoli del debito pubblico spagnolo, malgrado la crisi spagnola sia molto più grave della nostra, diventa da quel momento stabilmente, strutturalmente inferiore in quello incorporato nei titoli italiani. Siete favorevoli alla soluzione spagnola? Lo so che è una domanda paradossale, provocatoria, estrema, chiedere di tifare perché i mercati esprimano sfiducia verso l'Italia e essi diano quella spinta, quella spallata che la situazione politica bloccata non è in grado di esprimere invece. Significa credere che di lì possa venire a breve lo sblocco della situazione politica italiana, ed è uno sblocco naturalmente la soluzione spagnola, fondato sul fatto che chi aveva le cartucce le ha sparate male, non ne ha più nel carniere, fondato sul fatto che chi aveva credibilità l'ha usata male, ora non ne ha più di residuo, fondato sul fatto che le incertezze politiche, magari di elezioni a breve, di una situazione politica diversa, sono tantissime. In Spagna sono meno, si sa già chi le vince, i popolari di Rajoy. Da noi sono altissime, sarebbero altissime, ma in ogni caso i mercati dicono peggio di così non potete andare. Meglio una situazione diversa, di qualunque tipo possa essere, con un governo del presidente di transizione, con una formula per la quale i partiti siano chiamati, tra quelli dell'attuale maggioranza e quelli dell'attuale opposizione, a esprimere un voto magari verso una compagine con gente non direttamente espressa da loro, ma espressione di un fatto che per un breve volgere di tempo bisogna assumere provvedimenti tempestivi, efficaci, credibili, per poi traghettare verso nuove elezioni, magari cambiando anche la legge elettorale. Non si sa. Questo è lo scenario. La soluzione spagnola vi convince oppure no? Prima di arrivare a chiederlo ai nostri ospiti, perché siamo arrivati vicinissimo nei giorni scorsi a una quantità di pressioni istituzionali nei confronti del Presidente del Consiglio tale da porre quasi questo dilemma. Il Presidente del Consiglio ha avvertito fortissimamente, tra le pressioni della BCE, del Presidente attuale della BCE, del Presidente entrante Mario Draghi, tra le pressioni del Quirinale, le iniziative del Quirinale non preavvertite neanche per cortesia al governo. Ecco, Silvio Berlusconi secondo me in queste ultime settimane ha avvertito con una forza crescente che intorno a sé c'è una pressione che volge tutta in quella direzione. È la pressione dei mercati, ma è la pressione dei regolatori, è la pressione del Quirinale, è la pressione di chi altrimenti in Parlamento la forza non ce l'ha e non ce l'avrà fino all'ultimo giorno di durata di questa legislatura. Questo è un altro tema. Il Presidente del Consiglio solo, diviso all'interno del governo, con un problematico rapporto con il Ministro dell'Economia Tremonti, che ha una responsabilità, questo problematico rapporto molto evidente e molto forte nelle diverse versioni di una manovra autocappottata ogni giorno e che anch'essa ha contribuito a perdere credibilità. Allora, questa sensazione che tutti quanti noi che facciamo questo mestiere abbiamo in maniera tangibile, della crescente solitudine del Presidente del Consiglio, è un dato politico rispetto al quale il primo dato, quello della soluzione spagnola se i mercati ripartono, compone anch'esso un tassello politico, oppure è semplicemente un pezzo di vicenda umana, un pezzo del colore, del declino e del degrado della qualità politica italiana da 2 anni a questa parte. Terza questione: esiste un problema della Lega all'interno della maggioranza? Beh, è evidente che fin dal primo momento, dal 13 di agosto, che la Lega è la componente che ha detto no ad alcuni degli interventi che fin dal primo momento avrebbero consentito di dare più credibilità, tempestività ed efficacia all'azione del governo. La Lega ha detto no e ha continuato a dire no fino alla fine, fino a lunedì scorso, all'ennesima correzione della manovra, a interventi capaci di accelerare la convergenza dei tetti del trattamento di anzianità rispetto a quelli di vecchiaia, magari elevandoli a 67 anni in 4-5 anni, una manovra che da sola avrebbe dato 60-70 miliardi di euro, strutturale, permanente e anche segnata da maggior giustizia intergenerazionale nei confronti dei giovani, a cui neghiamo un avvenire di pensione come quello invece che continuano ad andare in pensione a prima di 60 anni e con il retributivo Predini. Eppure la Lega ha detto no. Non si è a lungo capito chi diceva no bene all'aumento dell'IVA, che andava giocato fin dal primo momento e magari con una credibilità diversa di questo punto che arriva all'ultimo secondo a copertura dei saldi invece che destinato a creare spazio per abbattere i contributi e quindi per sostenere la crescita assumendo i giovani. La Lega ha continuato a dire di no. La Lega è favorevole alla diminuzione dei tagli alle autonomie. Anche questa componente della Lega, vogliamo capire se è semplicemente espressione di inconsapevolezza, ci credo poco, oppure è una maturazione di una posizione che quando si arrivasse alla pressione dei mercati per la soluzione spagnola oramai direbbe sì, anche fingendo magari di non essere troppo d'accordo, e anche arrivando alla questione precedente, quella della solitudine del Presidente del Consiglio, alla fine direbbe sì, dicendo beh oramai vediamo di risolvere il tuo problema, ma noi non possiamo rimanere incastrati qua. C'è questa componente o non c'è? Secondo me c'è, a dirvi la verità. Allora, mentre riflettete su queste domande e riflettete sulle notizie del giorno, che sono naturalmente la scandalosa diminuzione dei tagli all'indennità dei parlamentari che hanno il doppio incarico, lo hanno diminuito naturalmente il taglio, chiacchiere chiacchiere, ma quando si tratta di tagliarsi le cose scandalose nelle loro tasche, come vedete il refrain è sempre lo stesso. Mentre vi prego di riflettere almeno su due o tre articoli anche oggi, l'articolo di Alesina, Alberto Alesina sul Corriere, io lo condivido integralmente, finirà comunque a patrimoniale e ci bastoneranno, quando invece la strada e l'alternativa era diversa. Non credete a cui vi dice che la patrimoniale è senza alternativa, ma siamo in minoranza, Alberto Alesina e io. Infine un altro articolo, pagina 12, sempre il Corriere della Sera, e questo è molto interessante secondo me, e sono le variazioni del reddito disponibile familiare nei maggiori paesi, praticamente in tutti i paesi europei, nel periodo 2007-2009, cioè nei tre anni di fuoco della crisi internazionale. E purtroppo, se andiamo a vedere il reddito disponibile per le famiglie, ecco, l'Italia è quella che ha preso la terza botta più consistente. Le famiglie italiane incassano tra 2007 e 2009 un meno 3,3% del reddito disponibile, e questo meno 3,3% è francamente, anzi, la cifra peggiore in termini comparati, perché il risultato negativo è tre volte inferiore a quello che è avvenuto in Danimarca e addirittura in Grecia, per essere chiari. In Grecia, in Danimarca c'è un meno 1,2%, in Grecia meno 1,3%. State attenti che questo dato greco non incorpora gli effetti 2010 dell'esplosione della crisi dell'eurodebito, quindi potrebbe falsarvi, ma se andate a vedere la variazione del reddito disponibile di tutti gli altri paesi europei, trovate che persino in Irlanda, l'Irlanda travolta nel sistema bancario, c'è un più 3,7% del reddito disponibile delle famiglie, Svezia più 4,2%, Finlandia più 4,2%, Spagna più 4%, Francia 2,2%, Stati Uniti 2,5% e così via, in testa alla classifica la Norvegia più 8,3%, noi siamo al meno 3,3%. Questo meno 3,3% va paragonato al fatto che in termini di PIL abbiamo perso PIL, siamo quelli che ne hanno perso di più dopo Irlanda e Finlandia. Ma il problema è che, come si vede, la perdita del PIL italiano comporta una perdita del reddito disponibile molto più che proporzionale sulla struttura del reddito disponibile ai consumi delle famiglie italiane. E questo perché così funziona il nostro fisco, il nostro Stato, che come sempre viene dipinto come un fisco Stato ingiusto solo perché peserebbe troppo poco verso l'alto, verso i famosi ricchi, mentre invece è soprattutto ingiusto perché pesa troppo verso il basso. Questo è il punto. E voi dite la stessa cosa, perché pesa troppo poco verso l'alto e quindi pesa troppo verso il basso. No, pesa troppo sia verso l'alto che verso il basso, solo che vi raccontano solo la metà di questa storia. Allora, sulla soluzione spagnola, sul problema della Lega, sul problema della solitudine di Berlusconi, sentiamo come la pensano gli ospiti in questa prima parte della trasmissione. Abbiamo con noi Cristina Giudici del Foglio, che ieri ha scritto secondo me uno strepitoso articolo che si intitolava Zenga Zenga, esattamente sulla questione della Lega. Buongiorno e grazie a Cristina Giudici. Buongiorno. E Giorgio Mulè, il direttore di Panorama, che saluto e col quale iniziamo a ragionare su questi tre interrogativi. Partiamo dal primo: secondo te la soluzione spagnola è dietro l'angolo oppure invece la legislatura va avanti? Intanto buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Insomma, sembra un esame universitario quello tuo di stamattina, ero molto timoroso sentendoti. Allora, prima domanda: la soluzione spagnola è sicuramente il tema sul tappeto, cioè laddove con la politica non si è riusciti ancora una volta a scardinare il governo, e questo affonda in realtà le radici in un'epoca lontana, affonda le radici ancora un anno fa a Mirabello, a Gianfranco Fini, lo strappo di Flì, la fiducia del 14 dicembre che doveva segnare lo spartiacque alla conta, a quella conta Berlusconi vinse e vinse ancora per altre 6 o 7 volte in altri tentativi di spallata successiva. Quindi ancora una volta alla soluzione politica, la soluzione politica non è stata quella che è riuscita a scardinare Berlusconi. Vi sono due strade parallele in questo momento, certamente la soluzione spagnola, che è quella dei, dico per esemplificare, dei poteri forti e comunque diciamo di chi ha leve per agire sul panico e quindi spingere il governo alla dimissione, quella giudiziaria che non va dimenticata e ne va sottovalutata e che peraltro produce un secondo effetto a cui tu facevi riferimento, che è quello della solitudine del Premier. C'è sicuramente in questo momento il Presidente del Consiglio che, se non è asserragliato all'interno di Palazzo Grazioli o di Arcore, poco ci manca, e lo è perché avverte, intimamente avverte, non solo l'impressione, ma tocca con mano il fatto di essere inseguito dai fantasmi di alcune inchieste, che sono quelle che riguardano i fatti in alcuni casi privati e privatissimi, cioè quella di Bari e quella di Milano, in alcun altro un fatto che lui neanche relega nel novero del codice penale, che è l'inchiesta per la estorsione presunta subita da Tarantinella Vitola, che lo fanno sentire ancora una volta nella veste che lui peraltro predilige di indossare, cioè quella del perseguitato, con un piccolo particolare, che se dovessero essere pubblicate le 1700 e passa intercettazioni che la procura di Milano, di Bari hanno con le ragazze, sarebbe un colpo non più tanto alla credibilità, ma sarebbe un colpo alla sua personalità, perché ne verrebbe fuori, come dire, un uomo che al riparo, comunque pensa di essere al riparo da qualsiasi origliamento, in realtà si lascia andare a confidenze e apprezzamenti di ogni genere tipo. Allora, tutto questo produce su Berlusconi l'effetto dell'isolamento, il fatto di non volere confrontarsi e di volere al più presto, e in questo diciamo l'uomo lo vive male, liberarsi al più presto da queste catene che avverte lo stanno sempre più stringendo al punto di stritolarlo. Paradossalmente Berlusconi teme molto di più l'effetto di queste inchieste, piuttosto che le inchieste con reati spaventosi che erano stati ipotizzati nei suoi confronti, come la partecipazione addirittura all'ideazione delle stragi di Firenze o di Roma degli anni 90, o addirittura a un patti scellerati con la mafia. Nella sua accezione, erano talmente enormi quelle accuse da non meritare la sua attenzione. Queste inchieste invece riguardano, siccome riguardano da vicino il privato e riguardano soprattutto da vicino i rapporti personali che ha, producono un effetto di isolamento e quindi potrebbe essere ancora più gravi, per arrivo alla conclusione, e determinanti indecisioni che il Presidente potrebbe prendere rispetto a scenari internazionali di cui ha la soluzione spagnola. Giorgio Bulè non è che escluda, ha aggiunto tutta la parte delle inchieste e dei particolari che purtroppo potrebbero aggiungersi a quella della perdita di credibilità, ma nella tua cognizione, per come lo avverti, Berlusconi potrebbe arrivare, nessuno di noi deve fare il vaticinio per così dire, ma potrebbe arrivare a dire mi avete rotto le scatole? Io penso che questa espressione, che non è soltanto contenuta in uno sfogo con la Vitola, il Presidente l'abbia detta e l'abbia ripetuta e l'ha ripetuta, per quello che mi costa, anche negli ultimi giorni, per cui la tentazione di mollare, la tentazione di fare un passo di lato sicuramente c'è ed è, come dire, ripetuta e ribadita. Questo sicuramente è vero. Poi Berlusconi molte volte dice questa frase per sentirsi dire dall'interlocutore di rimanere e che senza di lui questo paese non va avanti, cosa che peraltro è successa anche recentemente con Alfano rispetto al Delfino, a chi prenderà il suo posto dopo di lui. Lui stesso ogni tanto dice voglio lasciare la mano, per sentirsi dire poi da parti del suo partito, della coalizione interessata al fatto di non dare spazio magari a una persona che è l'unico politico in grado di traghettare ancora il PDL verso il futuro, è ancora Berlusconi. È un gioco di specchi. È un gioco di specchi, è un fatto fatto che per la prima volta si avverte all'interno del PDL, va bene l'uscita dell'intervista ieri di Pisano con tutte le polemiche che sono seguite, Pisano è notoriamente da tempo attestato sulla sponda che guarda dopo Berlusconi, però insomma qualche borborigmo nella maggioranza si sente. C'è il problema della Lega, prima di arrivare alla Lega e chiedere a Mulè, a Cristina Giudici che cosa ne pensano, sentiamo rapidissimamente un po' di flash di ascoltatori al volo. Enrico dalla provincia di Lecco, la tua risposta. Sì, buongiorno dottor Giannino. Sì. No, lei ha posto una domanda molto interessante, però io ne pongo un'altra di domanda. Ma è mica ora che questa nazione comincia ad avere un'evasione contenuta uguale per tutte le regioni? Un'evasione contenuta, cioè tu dici il nord come al sud? Un impiego uguale per tutta l'Italia? Va bene. Questa è una domanda che mi pongo. Va bene, questo vediamo, sai, le logiche di costo per cui l'IVA, ci sono parti d'Italia dove la si evade fino al 90%, sono logiche di diversa storica capacità dello Stato di essere, non di avere forza territoriale, i carabinieri, come sempre si pensa. Il problema è che c'è una credibilità complessiva storica diversa dell'efficienza della macchina pubblica a nord e a sud. Questo spiega perché poi le evasioni, soprattutto dell'IVA, sono più massicce nel sud. E lì lo Stato è uno Stato che è sempre stato più che altro uno Stato che ha preso, anche quando ha dato molto, l'ha dato molto in periodi di tempo molto ristretti e con risultati i cui rivoli sono poi persi fino a far perdere credibilità all'interno dello Stato. E questa è la storia poi dello Stato nel sud. Nicola da Bergamo, prego Nicola. Buongiorno Giannino. Senta, ma non le sembra che sia il caso che questi soggetti, il primo Berlusconi, abbia la minima decenza di andarsene, è ora di finirla? Ma non le sembra che questo straguadagno vada a proteggere, a difendere quella minima riduzione in tutte le televisioni, dalla Zanzara, ieri sera la televisione, la TG3? Ma è una roba da matti, ma chi è sto straguadagno? Ma perché si autonominano? Dai loro segretari vengono nominati e poi, ma non sono aziende, il Parlamento non è un'industria dove c'è il rendimento, l'altro rendimento, le presenze, il contatto con gli elettori, è ora di finirla, è una cosa indecente. Allora, Nicola, mi pare di capire che lei non serve per la situazione spagnola, serve proprio per sbaraccare via tutto, lo so, però questo è un po' radicale come cosa. La questione di cui ci occupiamo oggi è se tra Lega e difficoltà di Berlusconi è immaginabile che ci sia la spallata del Quirinale, la spallata dell'impresa della finanza, della banca, di tutti coloro che dicono recuperiamo credibilità. Sentiamo ancora rapidissimamente Enrico che ci chiama dalla provincia di Treviso. Prego Enrico. Buongiorno dottor Giannino e buongiorno a tutti. Sì. Io sono un liberale di vecchia data, votavo Malagodi, si figuri un po'. Mala tempora per chi la pensa così, eh? Lo so, brutti tempi, ma brutti tempi anche perché non ho mai creduto al liberalismo del nostro premier attuale, non l'ho mai votato, proprio perché non ci ho mai creduto. Ed ero una Cassandra, però infatti credo mi dia una ragione. Come? Un altro fatto che mi credo mi dia ragione è il fatto che da tempo dicevo ci vorrebbe uno straniero che ci governi, è arrivato, la BCE in qualche modo ci ha dato un input al quale abbiamo dovuto dare credito. Detto questo, io penso, vorrei sempre pensare positivo, e siccome la crisi è eccezionale, gravissima, bisogna trovare un metodo altrettanto grave e decisivo per risolverla o perlomeno affrontarla. Allora io direi, bisogna fare un conclave dove tutte le forze politiche, tutte le forze sociali, tutte le forze cosa della fanno? Produzione. Un conclave. Ma conclave cosa fanno dove? Alla fine? Prego? Dal conclave cosa esce Enrico? Rapido. Brevemente. Ne esce una proposta di una riforma o di una manovra credibile, sostenibile. Enrico, la interrompo. Senta, la mia opinione è diversa. Se crediamo che la somma degli interessi italiani fa le risposte rapide, tempestive ed efficaci, cosa abbiamo capito noi? Della lotta a coltello degli interessi sotto i nostri occhi, ognuno a escludere se stesso e i propri amici dalle novità e dalle riforme necessarie. Non lo so. Ci dimentichiamo i tassisti esclusi, gli avvocati esclusi, capisce? Poi non è che tutti sono sullo stesso punto, perché io per esempio sui tassisti, i tassisti sono dell'idea che li abbiamo presi molto a schiaffi in questi anni rispetto a come lavorano e a cosa fanno, troppo a schiaffi. Gli avvocati, adesso lo so che tutti quelli che ascoltano, forse lì è un tema che ha un impatto maggiore sulla vita delle imprese e la produttività del paese, o no, per dire, quindi che tutti si riuniscano nel conclave, ma cosa vuole che esca dal conclave della somma degli interessi italiani? Il problema qua è che al contrario, rapidità, efficienza, determinazione sono le capacità di leader statisti che devono avere delle maggioranze. Questo è il punto. Io per questo sono un po' scettico sul fatto che poi arriva il governo dall'alto del presidente. Il problema è che ci vorrebbe una politica capace di essere credibile, rapida ed efficace. Allora, giornale, altro giornale da guardare oggi, La Stampa. La Stampa ha un titolo a pagina 3 che dice: Berlusconi teme i PM e i sondaggi, i magistrati vogliono uccidermi, le rilevazioni lo danno perdente, addirittura anche se alleato col terzo polo. Questo a proposito della solitudine del premier e della problematica di cui ci ha parlato Giorgio Mulet, delle nuove carte in arrivo. Supertassa, la cazzo si fa lo sconto, mi chiami dottore. Ora l'onorevole vuole mimetizzarsi. Se riconosciuti per strada, spesso vengono insultati e a volte anche minacciati dalla gente. Inciso, ieri la polemica tra Castelli, scandalizzato perché nel taglio, dettaglio previsto all'indennità dei parlamentari che fanno doppio lavoro, nel taglio, nella riduzione al 20%, dettaglio precedente, quando ha capito che invece era totalmente esente dal taglio la Corte Costituzionale e il Quirinale, la polemica che c'è stata poi di fronte al Quirinale che gli ha risposto piccato, per una volta ci consente di dire che anche al Quirinale però non si rendono conto che credere che il Quirinale sia esente solo perché lì si applica il limite dei tetti del contributo di solidarietà che vale per tutto il pubblico impiego, non era una bella impressione. Quindi quando si tratta di distinguere, come se nel pubblico impiego, nella casta più elevata, dei ranghi più elevati delle funzioni pubbliche, nessuno fa eccezione, Quirinale compreso, costi del Quirinale compreso e rivendicazione dei trattamenti di chi lavora al Quirinale compreso. Lo so che adesso, se ci ascolta qualcuno, ho molti amici funzionari del Quirinale, adesso mi segnaleranno al capo dei servizi di relazioni istituzionali del Quirinale, mi arriverà, come sempre capita quando uno fa un riferimento di questo tipo, una lettera di precisazioni. Lo dico in anticipo, ieri quella polemica non mi è piaciuta per niente. Sentiamo Cristina Giudici. Cristina Giudici, Zenga Zenga era il titolo del tuo articolo di ieri dedicato alla Lega, al circo magico, le questioni della credibilità di Bossi, che sta forse fisicamente un po' peggio di quello che siamo abituati a scrivere sui giornali, i maroniani, l'ala maronita, il precedente del voto su Papa per l'autorizzazione a procedere che costituisce precedente in vista del caso milanese in aula. Cosa bisogna pensare per essere più comprensibili su cosa la Lega pensa dell'orizzonte del governo? È davvero ancora in prospettiva di dire sì a Berlusconi fino al 2013 o in realtà se strappano i mercati dice senti, sai che c'è, vai a casa? Ma non lo so, a vedere la padania oggi sembra che vada tutto bene, manovra ok, le borse volano, è il titolo dell'organo del partito, in realtà e poi c'è l'ordine di squadra che adesso devono dimostrare di essere compatti, eccetera eccetera, che è arrivata ieri pomeriggio di nuovo, e di contrastare, diciamo, queste fantasie giornalistiche sulla loro lotta molto, come dire, arrivata ormai quasi alla resa dei conti. Io penso che questo partito, vabbè, insomma, ci sono i sondaggi, che se sempre i sondaggi vanno presi un po' con le pinze, insomma, che li danno in una addirittura al 7%, avevano preso il 9% alle amministrative, che era già un calo rispetto al 10, insomma sicuramente è un partito che non va bene. Il problema è che gli elettori della Lega, indipendentemente da quanto si possa pensare, sono meno scemi di come li possiamo immaginare, cioè perché poi si pensa sempre allo stereotipo del leghista, quello duro e puro. Cioè il voto della Lega è un voto nordista, e nel momento in cui loro vedono che i loro dirigenti non sono più in grado di tenere la barra, loro non hanno messo in discussione tutta la loro leadership, a partire da Bossi, perché comunque anche quelli più convinti che Bossi abbia sempre intuizione, che abbia messo il dito sulla piaga, che sappia, che abbia avuto l'intuizione di capire le grandi differenze, diciamo, fra il sud e il nord, di dover, come dire, rivendicare una certa parte geografica e culturale, ma mettendo in realtà poi mettendo poi in risalto alcuni problemi, pensano che lui non abbia più questa capacità. È vero che Bossi è circondato da una corte un po' strana negli ultimi tempi, poi va e viene, cambiano sempre, Maroni sembra sempre che sia, come dire, la cui capacità come ministro, diciamo, è riconosciuta in modo bipartisan, sembra sempre che sia lì sul punto di poter prendere in mano le redini del partito, però poi non lo fa mai, perché comunque lui vorrebbe, come dire, una una via naturale, aveva puntato molto su Alfano, però per ora la strada Alfano gli è stata sbarrata. È uno che pensa alle strategie a lungo e medio termine. Non so, prima puntava molto, diciamo, a sbarrare il passo al PDL e sperava in un crollo, diciamo, della maggioranza. Adesso mi sembra che anche lui voglia che questo governo si esaurisca e si spenga da solo e poi ripensare a un'altra fase. Però insomma, a me sembra un po' una banda di matti in questo momento, se posso dire quello che... Ecco, detta proprio in due parole sintetiche e sincere da parte di Cristina Giudici del Fondo. A me sembra una banda di matti, nel senso che loro sono molto concentrati sulle loro lotte interne, cioè Attilio Fontana, che è il sindaco di Varese, si sta battendo come un leone per difendersi dai tagli previsti dalla manovra, che sono lineari e quindi non premiano i comuni virtuosi, non rivedono il patto di stabilità, eccetera, per ora. Sulla Padania però esce che in realtà oggi pubblicano un articolo in cui si dice che i comuni verranno alleggeriti da questi tagli, che non è scritto da nessuna parte. Certo, e quindi insomma, se uno prende sul serio la parte dell'impegno degli amministratori leghisti, in realtà dovrebbero pensare come Formigoni. Formalmente invece la polemica è con Formigoni, che eccede da parte dei vertici della Lega. Comunque insomma, se c'è tutto un movimento che ormai è uscito, diciamo, che poi tra l'altro questo dissenso è uscito, diciamo, dalla maroniana. È vero che Maroni adesso ha un grande consenso, però lui non può in questo momento, come dire, non possono consumarsi all'interno, sa saggiamente che non possono consumarsi all'interno di uno scontro fra i vertici, però il voto della Lega non è più un voto, perché voglio dire, i leghisti veri, quelli storici, sono un 3-4%, tutto il resto è un voto di opinione nordista. Quel voto lì loro se lo stanno perdendo, perché comunque non so, insomma, in tutti questi anni di andare e tornare dal governo, cosa ha portato a casa la Lega? Chiarissimo, ti fermo un secondo, perché noi abbiamo un mucchio di elettorato leghista che poi ci tempesta le telefonate, e abbiamo rappresentato con molta forza anche nei messaggi che vedo arrivare sia la componente che è molto delusa, sia la componente che dice state attenti però che chiedere o credere che la Lega molli rispetto al quadro che si profila nei sondaggi e come reazione che ci porterebbe solo nelle mani della sinistra, eccetera eccetera, c'è una parte del elettorato leghista che invece dice conviene tenere fino al possibile con Berlusconi. Comunque questa è una delle domande aperte. Allora abbiamo con noi il direttore della Stampa. La Stampa oggi, come ho citato il fondo di Lesina del Corriere della Sera, cito anche, perché al mio pieno senso, quello di Luca Ricolfi sulla Stampa, sprecata l'ultima munizione, è una descrizione da parte di Luca Ricolfi, che ci abitua a parlare di numeri con spirito che non è partigiano, di come in realtà l'erosione della credibilità dovuta alle successive versioni di questa manovra, senza una scelta precisa per gli interventi strutturali pluriennali di correzione degli andamenti di spesa e senza una scelta che indichi anche un sostegno alla crescita nel frattempo e un abbattimento dello stock patrimoniale del debito pubblico, queste tre caratteristiche siano l'erosione di credibilità per cui il titolo diventa, anche la linea del giornale, sprecata l'ultima munizione. Ma chiedo al direttore della Stampa, Mario Calabresi, sulla possibilità che al prossimo strappo dei mercati la complicata situazione personale di Berlusconi, sia per le indagini, sia perché la Lega è, come abbiamo tentato di descrivere, sia perché i vigilanti dal Quirinale alla BCE oramai danno l'impressione di condividere il giudizio del titolo che hai messo sul titolo di Luca Ricolfi, sprecata l'ultima munizione, tutto questo ti fa credere che siamo prossimi a una soluzione spagnola? O è meglio sempre escluderla ragionando coi piedi per terra, come alla fine poi i direttori generali devono fare, Calabresi? Come la pensi? No, io intanto buongiorno. Francamente mi sentirei di escluderla in questo momento. Primo, la Lega, pur nella sua confusione, pur nelle sue difficoltà, non mi sembra intenzionata a lasciare Berlusconi e non ha creato, come è successo in passato, ci ricordiamo nel 94, non ha creato e non sta lavorando a nessun tipo di alternativa possibile, e quindi mi sembra che finché Bossi tiene, quello scenario sia uno scenario da non prendere in considerazione. Poco fa vi ascoltavo, hai parlato di come dire, si dice spallata del Quirinale. Io di questo sono convinto che non esiste l'ipotesi di una spallata del Quirinale, in questo senso. Il Presidente sta svolgendo una funzione, chiamiamola di supplenza, di pungolo, anche in certi passaggi irrituale, con cui continua a intervenire. L'abbiamo visto poco prima di Ferragosto, lo abbiamo visto con la nota di 3 giorni fa per spingere il governo a mettere qualche cosa, come suggeriva la BCE, come suggeriva la Banca d'Italia, a mettere per esempio qualcosa sulle pensioni, a mettere l'IVA. Il Presidente ha una grande, da quello che mi risulta, da quello che capisco, ha come più grossa preoccupazione la tenuta del Paese, e quindi svolge questa funzione di, come dire, quasi anche di sostegno. Allora, siamo alla fine, ogni volta che qualcuno mi dice ah sì, vedrai domani mattina, dopo questo titolo di giornale, dopo questa inchiesta, dopo che sono uscite queste rivelazioni, domani mattina il governo salta, io ogni volta, avendo fatto il cronista parlamentare per 5 anni, ho imparato una piccola cosa semplice, che finché uno c'ha la fiducia in Parlamento e c'ha i numeri, non c'è niente da fare, esistono solo i golpe, ma dal punto di vista della democrazia e del funzionamento delle istituzioni, finché uno c'ha i numeri sta lì, non c'è niente da fare, e quindi finché Berlusconi ha una maggioranza e questa maggioranza, seppure ci sono movimenti che abbiamo visto, che avete descritto prima, da Pisanu, si dice Scajola alla Camera, però non sono al momento numeri sufficienti, finché non c'è una frana all'interno della PDL questa ipotesi non esiste, e io non penso che il Presidente della Repubblica, anche in caso di momenti più difficili sui conti o nuovi attacchi speculativi, si avventuri in una sorta, in un tentativo di, come dicevi, di spallata, di apertura di un conflitto, al quale Berlusconi reagirebbe. Siccome sappiamo che Berlusconi intende, e lo ripete continuamente, intende restare a Palazzo Chigi fino alla fine della legislatura, o comunque finché ha la maggioranza, a quel punto si aprirebbe un conflitto devastante tra il Quirinale e Palazzo Chigi, e vi potete immaginare, in un momento in cui noi siamo sotto, attacco dei mercati e della speculazione, ormai un giorno sì e l'altro anche, immaginatevi se in Italia si aprisse un conflitto istituzionale di quel peso, di quel livello, sarebbe una cosa devastante. Quindi io penso che vivremo i prossimi mesi, salvo che non succedano fatti eccezionali, vivremo i prossimi mesi come abbiamo vissuto l'ultimo anno, cioè vivendo giorno per giorno, alla giornata, e andremo avanti così, per correzioni minime. La cosa, e qui chiudo, che mi... quando si parla di modello spagnolo, ne parlavate adesso, il modello spagnolo però è anche il fatto che in 3 giorni le Cortes, tutti d'accordo, fanno passare il pareggio di bilancio in Costituzione. E questo non è tanto è il fatto che si va alle elezioni, ma in questa fase, secondo me, rimettere Berlusconi al centro come il Berlusconi assediato non mi sembra che sia la prima preoccupazione del Paese. Cioè, non siamo a un anno e mezzo fa, nel periodo da Tarantini e poi Rubi, eccetera, in cui era una cosa tutta concentrata sul Presidente del Consiglio. Questa crisi che c'è, la manovra che abbiamo dovuto fare, la crisi europea, la crisi dell'euro, le difficoltà, non sono più una cosa che riguarda il signor Silvio Berlusconi, è una cosa che riguarda l'Europa, che riguarda l'Occidente, e il problema è: siamo in grado di dare risposte credibili noi in questo momento? E quando Ricolfi scrive purtroppo è stata sprecata l'ultima cartuccia, lo scrive perché sa, e perché Berlusconi lo spiegava soltanto una settimana fa, che per esempio l'IVA veniva tenuta come arma finale, cartuccia finale da tenersi lì, prima si cercava di fare il resto e si cercava di uscire da questo attacco, dal fatto che i nostri titoli di Stato, gli interessi che paghiamo sono troppo alti, ci distanziano troppo dalla Germania, ci aumenteranno il debito, e allora l'IVA veniva tenuta come ultima cosa lì in fondo, e poteva servire o in caso di emergenza, oppure poteva servire, e questa era la speranza di una persona come Ricolfi, che si preoccupa prima di tutto poi di dire ma poi ci sarà crescita al Paese, e Ricolfi dice l'IVA, e lo ha scritto anche negli ultimi mesi, l'IVA sarà qualche cosa che dovrà servire, da una parte si dice l'IVA gelerà i consumi, anche se un aumento dell'1% francamente risulta quasi impercettibile, nel senso che se uno si compra un telefonino a 100 euro, se costa 101, non è che questo lo colpisce in maniera drammatica e irreparabile. Se però quei soldi fossero stati spesi, fossero stati utilizzati in un momento di difficoltà per provare a far ripartire la crescita, per fare degli sgravi, per alleggerire la tassazione su alcune categorie o aree del paese, ecco, questo poteva far sperare che il paese ripartisse. Perché il nostro problema, anche una volta che noi mettessimo questi cerotti alla situazione del debito e lo rimettessimo, diciamo, sotto controllo, si fa per dire, perché comunque rimaniamo con un debito immenso, il nostro problema che si riaffronterà dopo è che ci verrà posto il problema: ho capito, ma voi non crescete. Esatto. E a quel punto dove andiamo a prendere? E a quel punto la credibilità di un paese è fondamentale nelle ricette che ha, e a questo punto il problema non è se Berlusconi ha una, due o tre inchieste, è che tipo di risposta è in grado di dare. Allora, io ringrazio il direttore della Stampa, perché come avete sentito, il direttore di un giornale che non fa sconti, come ovvio nella cronaca quotidiana, dell'attacco che i mercati danno alla poca credibilità in questo momento delle manovre che dal 13 di agosto si sono succedute dopo quella di luglio, all'esigenza di dare una stretta alla spesa pubblica e però anche sostegno alla crescita, pur non facendo alcuno sconto, avete sentito che in realtà, in sintesi, è un bagno di realismo quello cui ci ha chiamati il direttore della Stampa. E allora, per evitare che poi il bagno di realismo venisse da me e ci fosse l'equivoco di molti ascoltatori che in questi giorni dicono che sono venduto alla controparte politica e confondono la durezza dei giudizi che do con l'adesione a una parte politica, e per evitare che fosse a darlo il direttore di Panorama, perché sennò dicevate tutti che Giorgio Muletti, credo, lavora per il turpa Berlusconi e quindi non può che dirci questo, che il direttore della Stampa vi inviti a riflettere sul fatto che, per quanto complicata sia la questione, dovremo andare avanti nel day by day, perché una maggioranza parlamentare intanto non si svelle a colpi né di iniziative né di regolatori né di pressioni e di verbali. Io lo credo una buona osservazione, perché è un'osservazione ispirata da realismo, non dal fatto di essere partigiani di una soluzione o per l'altra. Però in questi anni Silvio Berlusconi ha dimostrato di essere tetragono a tutti coloro che credono di svellerlo a colpi di artiglieria. Non credo che nemmeno la piega dei mercati lo renda particolarmente diverso nelle sue reazioni a quelle che ci ha insegnato essere in grado di porre, e che non sono quelle di solito del politico italiano, anche se lui è un politico consumato ormai, ma del politico standard italiano, che ha una soglia oltre la quale pensa che la sua credibilità sia compromessa. Berlusconi questa soglia ce l'ha altissima, ce l'ha, per così dire, esponenzialmente vicina agli asintoti, per cui tutto quello che considererebbe una persona normale come "ho perso la faccia, mi devo levare di torno", per lui è "neanche per idea, continuo a combattere". Ora abbiamo il minuto sull'informazione stradale, poi torniamo per le conclusioni col direttore del Panorama e ancora telefonate dei nostri ascoltatori. Eccoci qua per la conclusione. Chiedo agli ascoltatori di essere rapidi, flash, nel dare la risposta a soluzione spagnola sì o no, cacciare Berlusconi perché i mercati arrivano, lo travolgono, oppure no. Mario da Monza, prego Mario. Non è questione di essere favorevoli, saranno i mercati, secondo me, purtroppo, a dare la risposta. La differenza rispetto alla Spagna è che, mentre Zapatero, che ha il senso della vergogna e il senso del limite, sa che se scende dalla poltrona di primo ministro non va in galera, sono d'accordo che Berlusconi invece non mollerà in marzo, uno, perché ha tolto la parola vergogna dal suo vocabolario personale, e secondo, perché teme di andare in galera. Quindi resisterà fino all'ultima goccia del nostro sangue, fino a quando i mercati non lo butteranno fuori. E l'evocazione dell'8 settembre, che lei, Giannino, ricordando che anche la Natività di Maria ha fatto in esordio, e con tutte le differenze, evocativa, perché noi siamo di fronte ad un disastro ed una questione personale impedisce a lui e al suo Parlamento, che ha eletto in buona parte lui, di trovare una soluzione credibile. Noi, ma io però vedi, ho evocato la Natività di Maria perché magari la Madonna ci mette una buona mano, senza pensare che siamo sempre all'8 settembre. Oscar dalla provincia di Varese, rapido, prego Oscar. Buongiorno signor Giannino, io francamente sono molto d'accordo con il giornalista che ha parlato prima, perché sono elettore della Lega e sono francamente molto deluso da quello che la Lega sta facendo. Buttiamo giù Berlusconi, tanto ormai è cotto, stracotto, non è più in grado di andare avanti, ma la mia domanda è: e dopo cosa facciamo? Perché ecco, se anche facciamo una bella legge per il pareggio di bilancio costituzionale, il problema non è quello, il problema è che il sistema paese non funziona a livello politico. Noi abbiamo 2000 rotte persone che non ci servono sostanzialmente a niente e che ci costano un sacco di soldi, compresi anche poi tutti i gradi di gestione che abbiamo in Italia. Quella è la mia domanda, perché possiamo anche farlo fuori, va bene, non ci serve più. E adesso? Grazie a Oscar, provincia della provincia di Varese. Grazie anche a Daniele da Reggio Emilia, che giustamente mi tira le orecchie per dire: sei però preciso, vuoi essere preciso, non puoi e non devi dire esponenzialmente asintotico, perché matematicamente è sbagliato. Grazie Daniele, perché queste sono le correzioni che amo, perché se uno vuole essere preciso non deve usare impropriamente termini matematici. Roberto da Milano, prego, rapido. Sì, buongiorno Giannino. Vede, la soluzione non è tanto Berlusconi sì, Berlusconi no, Bersani sì, Bersani no. È tutto il sistema paese che marcia. Io speravo ieri nella corte di Karlsruhe che mettesse uno stop all'acquisto del TTIP. Quasi quasi anch'io, Roberto. Per fare salire lo spread, perché questo paese l'unico modo per cambiare è farlo fallire. Questo paese deve fallire. E poi dopo bisogna fare un semplice copia e incolla, ma copia e incolla letterale, gli ordinamenti tedeschi o svizzeri. Va bene, grazie Roberto, chiarissimo, tutti i mercati, perché i mercati siano l'unica vera frusta che l'Italia merita. Ubaldo dalla provincia di Terni, rapido anche lei. Buongiorno, senta, non si sente molto troppo isolato perché siamo più di uno insieme a lei, quindi coraggio. Dunque io sono favorevole alla soluzione spagnola come dice lei, sì. Però come sono un amante della storia, ho frequentato molto la Francia. Quale altra soluzione? Mi piacerebbe molto, in senso metaforico ovviamente, la soluzione francese del fine del 700, cioè la presa della Bastiglia. Ma lei è per la fase girondina o per quella giacobina? Perché a me i giacobini tagliatori di teste francamente non mi stanno molto simpatici. Comunque Ubaldo dice non c'è solo la soluzione spagnola, c'è anche quella francese, quindi con la reazione dal basso ma nelle piazze. Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Allora, il direttore della Stampa ci ha invitato al realismo: c'è una maggioranza, Berlusconi non schioda. Da parte tua la previsione è, comunque conoscendo Berlusconi bene, qual è secondo te la sensazione che bisogna avere rispetto a il tentativo di mandarlo via quando c'è ancora una maggioranza? Ci sono una serie di leadership che sono palesemente in difficoltà, la leadership di Silvio Berlusconi certamente, ma anche la leadership di Umberto Bossi, che se non è in declino è certamente molto appannata. C'è anche una grandissima crisi di leadership a sinistra all'interno dell'opposizione. Bersani, un po' perché alle prese con una questione morale che da prima ha sfuggito, ha negato, e con la quale adesso deve fare i conti all'interno di un partito che in gran parte soprattutto non riconosce più quella vitalità e quella forza riformatrice che aveva, anche perché palesemente smentita dalla partecipazione a uno sciopero che più antisindacale non si ricordi nella storia, come quello della CGIL. C'è una crisi di leadership diffusa. Se al termine, al tramonto della Prima Repubblica, vi era già presente chi avrebbe potuto prendere il posto della Prima Repubblica, dei maggiorenti della Prima Repubblica, c'era Segni, c'era Berlusconi che già alla fine del 93 era ben presente, il grande boh di questo momento è che non c'è nessuno alle porte in grado di darci un progetto reale di un paese diverso o comunque non uguale a quello in cui stiamo vivendo rispetto a quello che successe 17 anni fa. Su questo si fonda una fase pericolosissima per la stabilità del paese, che non vorrei che, al di là della soluzione spagnola, appunto, prima si evocava quasi Robespierre, ci trascinasse in un gorgo in cui fossimo governati, diciamo, da altri e non da noi stessi, come democraticamente abbiamo deciso di fare. E intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il pareggio di bilancio in Costituzione. Oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito alle 9.30 per avere questo e insieme al disegno di legge costituzionale per la modifica delle province. Attenti a credere che si possa sostituire la politica con gli inviati dall'alto. Questa è la mia stessa conclusione. Per questo io dico che bisogna passare comunque per elezioni. Per elezioni, magari modificando l'offerta politica. Chi come me vuole meno Stato, meno tasse e più crescita ha diritto a quel punto a scendere in campo e a chiedere a tanti italiani che la pensano come noi di non farsi buttare sotto da chi vi chiederà altrimenti bastonate patrimoniali. Io non sarò mai d'accordo con loro. Mai, mai, mai. Mi faccio cacciare piuttosto. Questo è il mio impegno. Grazie al direttore del Panorama Giorgio Mulè, al direttore della Stampa Mario Calabrese, a Cristina Giudice del Foglio, e appuntamento a domani di Linea Generale Radio. 9 in punto.